Ecco, allora ricomincio. Questa iniziativa rientra appunto in una serie di attività che la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che ha sede presso il centro Trevi, con una entrata appunto all'angolo con via Marconi, di incontri con autori e autrici. Il filone narrativo, soprattutto quello legato al territorio, un legame che può esplicitarsi attraverso il contenuto, il tema scelto, oppure attraverso l'autore. È un tema, è un filone che cerchiamo di promuovere con delle iniziative periodiche. E questa occasione stasera si presenta con l'ospite che abbiamo qui con noi, che è Stefano Chinaglia, un giovane autore che è nato e vissuto e vive, anzi, qui a Bolzano, lo faccio già fast president, e ha scritto un romanzo che ha portato poco tempo fa qui in biblioteca, il titolo è Bachmann, un titolo così suggestivo, e che si sviluppa e segue, diciamo, potrebbe essere inserito in un contesto, in un genere che potremmo definire fantasy, fantascientifico, distopico, perché, e poi vi racconterò insomma quelle che possono essere le suggestioni che ha sollecitato in me nella lettura, e, però senza nulla togliere che vorrei chiedere poi anche delle eventuali conferme da parte di Stefano, oppure delle opinioni diverse, non so, degli intenti diversi. Però quello che ho colto nella lettura di questo libro, che tra l'altro si legge molto velocemente ed è costruito anche molto bene, con una climax che si evolve piano piano, entrano, diciamo, questi personaggi lentamente in scena, ma con sapienza dosa l'apparizione e sa costruire alcuna tensione che poi sfocia con i tempi giusti e si conclude con un colpo di scena che è stato costruito, sì. Non possiamo svelarvi tante cose, ma intanto iniziamo così a conoscere meglio il nostro autore, che, a cui vorrei chiedere qualche informazione così che il nostro pubblico lo possa conoscere meglio. E quindi iniziamo appunto col chiedere come mai, ecco, Stefano a un certo punto decide di scrivere un libro e perché proprio un genere da inquadrare nell'ambito della fantasy, della fantascienza, del genere, anzi, distopico. Allora, innanzitutto si sente? Sì. Boh. Allora, in realtà del perché io abbia deciso di cominciare a scrivere un libro è una domanda che deve risalire molto indietro nel tempo, perché questo non è il primo libro che scrivo, è il primo che pubblico. Perché scrivere mi è sempre stato un hobby molto divertente, invece di, cioè, oltre a leggere le storie, soprattutto quelle che si davano a scuola, non sempre intercettavano i miei gusti, andavo sia alla ricerca di storie da leggere per i fatti miei, e a un certo punto anche ho cominciato a, quasi naturalmente oserei dire, a scriverle. Certo, i primi esempi è meglio stenderci sopra un velo pietoso, però poi nel tempo le cose sono un po' migliorate. Ed è perché abbia scelto in questo romanzo di usare un genere di tipo fantascientifico, beh, perché a me la fantascienza è sempre piaciuta, e anzi varie cose che ho scritto, e magari anche soltanto per i fatti miei, sono effettivamente di fantascienza. Ed è perché io abbia scelto di scrivere proprio questo romanzo, diciamo che nasce da un gioco di parole, perché il titolo Bachmann a qualcuno di voi potrebbe evocare qualcosa, tipo un tizio vestito da pipistrello che si aggira di notte per una città americana dei fumetti. E infatti un po' l'idea era quella di, l'idea originale era quella di innovare un po' il genere supereroistico, quello tipicamente americano, anche del fumetto americano. È inutile che facciamo pubblicità a nomi che probabilmente sono anche molto ben conosciuti, oppure si può, vabbè. Comunque i supereroi americani, vabbè, tanto sono parte ormai di cultura popolare, sì. I supereroi americani in particolare. E negli ultimi anni, insomma, soprattutto nelle uscite al cinema, non mi pare che abbiano brillato proprio per capacità di innovazione. Quindi un po' l'idea di partenza era stata quella. Poi però, da cosa nasce cosa, e il risultato è stato un libro che di supereroistico mantiene poco niente in realtà. Però comunque ha un po' una... fa un po', strizza un po' l'occhio soprattutto a certo cinema americano d'azione in particolare, o a catastrofico anche, senza però, almeno questa era l'intenzione, poi saranno ovviamente i lettori a stabilire se sia stata raggiunta, senza scadere nel già visto, nel già sentito, nel già eccetera. Ecco, allora Stefano diceva che non è il primo libro, quindi vediamo un attimo che cosa ha scritto, comunque se ci può dire come sono stati, dov'è che ha mosso i primi passi nella, così, nell'esercitarsi, nel sperimentare quest'arte del racconto. Ah beh, allora, il primissimo passo, perlomeno il primissimo di cui io abbia memoria, erano tre racconti, in realtà neanche romanzi, tre racconti di fantascienza, un po' ispirati ai grandi classici anche della fantascienza, soprattutto televisiva. Anche qui per ovvie ragioni anche di budget la fantascienza americana, e tipo Star Trek, Guerre Stellari, eccetera. Quindi quella roba là, per intenderci. Solo che quei tre racconti erano un po' tutti collegati tra loro, allora ho deciso di raccoglierli in un unico volume, l'ho stampato, stampato dalla stampante, quindi mica chissà cosa, l'ho fatto rilegare e ce l'ho su una mensola in casa. Come si intitola? In realtà sono tre racconti che hanno tre titoli diversi, li ho raccolti sotto il nome di Enterprise, da cui appunto, come si può facilmente immaginare, l'ispirazione, il richiamo, perché Enterprise è il nome dell'astronave che compare. Sì. Invece però già subito dopo sostanzialmente l'aver visto uno sceneggiato della Rai all'epoca prodotto, ancora era il Napoleone che è andato in onda nel 2002 ancora, l'idea mi è venuta di dire ma se noi provassimo a trasporre un attimo la storia di Napoleone in un immediato futuro? E da lì è nato un primo romanzo, questa volta romanzo vero, ovviamente di qualità discutibile, però comunque un primo esempio che mi ha spinto ad andare avanti, e da quel momento, poiché anche mi divertivo, onestamente, ho continuato a scrivere testi che sono rimasti per la più parte in realtà delle prove, cioè non facilmente pubblicabili o comunque non a livelli qualitativi adeguati, però qualcuno giustamente, soprattutto nei tempi più recenti, ci ho provato e beh, alla fine è andata bene. Benissimo, allora qualche esca e qualche indizio ce l'abbiamo, no? Abbiamo visto che si tratta di un romanzo fantascientifico, abbiamo detto di fantascienza, pardon, abbiamo detto che c'è un personaggio, un supereroe che ha ispirato, quindi c'è un'allusione ad un supereroe molto popolare, ma anche a una figura storica. Quale altro indizio vogliamo dare o quale altro suggerimento, così mancano ancora alcuni elementi per solleticare, per stuzzicare il nostro pubblico? Beh, un suggerimento in realtà vale la pena di spenderlo sul genere, perché qui giustamente l'abbiamo classificato come fantasy, fantastico, fantascienza, però curiosando qua e là in rete sui siti dove è acquistabile, io ho scoperto fantascienza, thriller, horror, giallo e... nel senso che non è immediatamente identificabile in un genere. Tanto per dire, un romanzo su Giulio Cesare difficilmente sarà un steampunk fantascientifico, sarà più che altro un romanzo storico. Questo è un po' più ambiguo invece. Sì. Per quanto riguarda invece, diciamo così, una chiave di lettura, bisogna un attimo tenere a mente che c'è, ecco, mi permetterete di usare un termine musicale, il contrappunto. Cioè, senza entrare nei dettagli che magari qualche studente di conservatorio potrebbe offendersi, il contrappunto è una tecnica musicale in cui due melodie sono suonate contemporaneamente e vanno bene insieme. E qui abbiamo effettivamente due linee da seguire sostanzialmente. Da una parte la linea dell'azione, che è un crescendo che comincia con una minaccia, del resto non sto anticipando nulla, tutte cose che si leggono dal retro di copertina. Sì. Quindi, o comunque si capiscono a pagina 3 o 4 entro il primo capitolo, comunque, quindi nessuna anticipazione. E però accanto a questa c'è anche una linea molto più ironica, molto più leggera, che entra dalla finestra con numerose chicche, chiamiamole pure così, che variamente, alcune sono facilmente comprensibili da chiunque, altre magari richiedono una conoscenza di altri eventi pregressi, alcune probabilmente sono irriconoscibili perché richiedono una conoscenza proprio specifica di certi eventi che solo alcuni possono conoscere per il semplice motivo che non appartengono alla storia di pubblico dominio. Cioè eventi di che genere? Eventi magari che sono capitati a me privatamente. Ok, quindi c'è la componente autobiografica. Sì, senza eccedere però. Ho capito, ma e di quanto c'è di Stefano Chinaglia in questo personaggio a metà strada fra Napoleone... non lo so, adesso mi viene in mente anche un musicista, no? Oltre che chiaramente il supereroe Batman ed altre cose. Quanto c'è di Stefano Chinaglia, questo protagonista tra virgolette maledetto, direi, perché insomma è un personaggio non necessariamente positivo, anzi no. Direi che il protagonista, e però qui mi taccio. Beh, allora in verità, più che non si può proprio parlare di protagonista in senso stretto, perché uno si immagina il protagonista, l'eroe o l'antieroe, perché può anche esserci il protagonista, certo, malvagio, certo, che entra in scena, fa cose e alla fine arriva a una situazione finale. Beh, non è proprio così, perché questo è un romanzo a dimensione un po' più corale. Cioè la figura di Bachman si staglia continuamente in ogni pagina, chiaramente. Però non c'è solo lui, c'è tutta una serie di figure di contorno. La task force che recita sul retro di copertina, per esempio. E diciamo che di me c'è... non c'è un personaggio spiccatamente autobiografico, come magari in altri casi, perché altre storie che ho scritto invece il personaggio autobiografico, siamo onesti, c'è. Però ci sono elementi, in particolare c'è, questo non sto anticipando nulla perché lo si capisce dal primo capitolo, una forte tensione da un lato tra la musica classica, del resto lo stesso Bachmann rimanda a un celebre compositore nel nome, e dall'altro invece la musica più moderna, che spesso sono lette in antitesi, cioè spesso i fautori, i grandi cultori della musica classica bollano la musica più contemporanea, magari anche quella che va alla radio, come spazzatura, o al contrario i fan sfegatati della musica più pop, certo, rock e variamente, bollano la musica classica come roba da parrucconi. E qui mi sorge una domanda da fare, no? Allora, questa antitesi fra la musica classica e la musica moderna, contemporanea, funky, perché qui ho letto tutti i generi e nessuno era ritenuto degno, no, da Bachmann di sopravvivere, anzi, e quale preferisce? E in effetti qui io sono un po' imbarazzato, perché se dovessi scegliere un genere... Io potrei dire preferisco la musica classica, però poi il mio lato un po' più moderno si inalbera e si arrabbia. E allora, tanto per dire, potrei dire che preferisco il, che so, il rock progressivo, o il... Insomma, Genesis. Il Genesis, o anche più banalmente i Beatles. Il fatto è che Bach e i Beatles, solo perché cominciano entrambi con la B, sono magari un po' difficili da mettere insieme, però io li apprezzo entrambi, quindi divento un po' difficile, cioè mi sono trovato un po' in imbarazzo nel sostenere l'una più che l'altra parte. Allora, qual è? C'è una congiunzione fra questi generi musicali? Ma forse quella che si avvicina... Che permette di amarli senza entrare in schizofrenia? Beh, innanzitutto si possono tranquillamente amare separatamente, cioè... Okay. Nel senso che uno può tranquillamente apprezzare la musica concertistica, la musica da camera, tanto per la musica da camera tedesca dell'Ottocento, e lo stesso apprezzare molto gruppi musicali che hanno fatto comunque cose egregie, i già citati Genesis, per esempio. Però, ecco, se vogliamo invece cercare di unire le due cose, c'è stato, ogni tanto torna in vita, ma soprattutto negli anni 70, il filone del rock progressivo, per l'appunto, mm-hmm. che cercava, e nei casi migliori ci è riuscito benissimo, a unire da un lato la musica rock come l'avevano ereditata dagli anni precedenti, fin dalla tradizione di Elvis Presley e compagnia cantante, è il caso di dirlo, e dall'altro invece gli schemi un po' più rigorosi della musica classica, quindi soprattutto del barocco, che ritorna molto in certe produzioni di quel periodo. Ecco, in effetti forse se dovessi scegliere uno solo come mio genere preferito, sceglierei quello. Mm-hmm, ho capito, sì, sì. Però è una scelta ardua, mettiamolo. L'uso di certi strumenti, certi, non so, l'organo. Sì, no? L'organo è... Queste... Poi vabbè, l'organo a me piace particolarmente e infatti torna. E anche nel libro ci sarà l'organo, ma è quasi uno strumento del terrore, perché a un certo punto ha un'apparizione scenica, la descrive molto bene il nostro autore, questo organo della chiesa, insomma, mi viene in mente proprio un organo da dentro in una cattedrale, che in maniera imponente appare tra le righe e viene descritto come una macchina da guerra. Ma perché l'organo è una macchina da guerra? L'organo noi ce l'abbiamo magari in mente come quello strumento dolce, delicato, soffuso, ma quando si cambiano i registri e si mettono quelli più potenti, e si va a suonare sulle note acute, l'organo crebbio, fa tremare. Ci sono dei brani per organo e che a saperli suonare lì ci vuole probabilmente una piovra, ma ad ascoltarli sono veramente qualcosa di tremebondo. Ma anche senza andare troppo sull'esotico, la conosciamo più o meno, l'abbiamo sentita tutti, la famosa toccata e fuga di Bach, cioè ad ascoltarla tutta è qualcosa di agghiacciante, nel senso buono, ma pur sempre agghiacciante. E appunto Bachmann, toccata e fuga, che è il nome in codice dell'operazione, ovviamente, e lì mi è venuto proprio da ridere, ho detto: Stefano è dotato veramente di un senso di ironia molto inglese, perché lo troverete anche tra le varie righe, non solo delle citazioni appunto anche della filmografia degli anni 90, ecco, questo atteggiamento molto tronfio, no? Che viene dipinto in alcuni film americani, non necessariamente d'azione. Io ho visto anche dei film così, ho intravisto delle citazioni di film più comici, ecco, e devo dire che comunque nell'insieme questo libro mi ha in parte anche così fatto tornare indietro un film di Truffaut, che è Fahrenheit 451, cioè questa tragicità, questa censura, questa pesantezza e questo sterminio nell'ambito culturale, che siano i libri o che sia la musica, questo atteggiamento di diniego e di voler a tutti i costi fare piazza pulita, ecco, l'ho sentito molto, molto vicino. Non so se era voluto o se è una mia, così, un mio collegamento che ho fatto, però devo dire che in certi momenti la drammaticità è abbastanza paragonabile anche a questo film, che a sua volta viene da un romanzo di Bradbury. La musica che parte, allora, quindi nella vita di Stefano, la musica, se è riuscito a concepire un dramma di questo genere, insomma, perché questo scontro titanico è abbastanza pesante, insomma, sono 100+ pagine dove il clima e la tensione aumentano sapientemente. Vabbè, allora la musica sicuramente ha una parte importante e io sono molto dilettantesco, estremamente dilettantesco, so suonare qualche nota, uso proprio alla tastiera, quindi non è l'organo quello vero, né il pianoforte quello vero, però è anche per una questione di comodità Che veniva usato dalle rock band degli anni 60 e 70, infatti, quindi io ascolto molto anche di quel genere musicale. Il flauto? Il flauto l'ho suonato, il flauto dolce ovviamente l'ho suonato a scuola come tanti. No, ma in realtà non sono molto, cioè mi piace come strumento, anche se devo dire, in realtà mi piace di più l'oboe. Questo è, però in quel... In, comunque insomma ci sono molte, molti strumenti che però la tastiera, la soddisfazione, sì, permette qualche sonorità. Cosa sia chiaro, è molto da dilettante, però io non ci credo che lui sia dilettante nel suonare la tastiera. La sorella fa degli strani segnali. ma lei non conta, lei è di parte. Ok, va bene. E comunque sia, oltre vabbè, a suonarla, anche la scuola, ascolto molto, anzi c'è stato tutto un periodo, adesso magari meno perché tendo a concentrare soprattutto l'attenzione, ma c'è stato un periodo in cui quando scrivevo regolarmente ascoltavo musica. Mm-hmm. Adesso magari meno perché faccio molta più attenzione, quindi avendo una maggiore, molto... una concentrazione più concentrata, sebbene sia orrendo da dire. Un simbolo, va bene. Come fa la concentrazione a non concentrarsi, insomma. Magari meno, però comunque continuo ad ascoltarla, magari anche facendo varie attività ricreative che non richiedono audio, tipicamente, tac, un brano musicale di sottofondo e ci sta. Adesso vediamo se viene fuori il Bachmann che c'è in te. E passo al tuo. Allora, che cosa pensi della musica odierna, attuale, quella che si sente in tutti i giorni? È una... è uno sparare sulla Croce Rossa un po'. Allora, devo ammettere che ho dei gusti musicali abbastanza ampi, nel senso che io ascolto anche cose sia molto antiche, sia anche molto recenti. Però, sebbene ampi, sono anche esigenti. Quindi io pretendo all'autore, dal cantante di turno, che abbia un certo livello qualitativo a livello in termini melodici, in termini di arrangiamento, quindi di apparizione d'insieme, e che soddisfi me. Poi, per carità, è chiaro che alcuni autori che a me non piacciono non sono per nulla degli incapaci, è assolutamente evidente, non è una questione di gusto personale. Però onestamente, se devo essere sincero, la musica contemporanea, quella più contemporanea, a me sembra che manchi un po' di mordente. Cioè, ci sono delle cose molto interessanti, perché andando a scavare si trovano anche cose che uscite nel 17 o nel 18, quindi 2017 e 2018, che vale la pena di ascoltare. Quindi cose molto recenti, però... Quindi c'è speranza. Quindi c'è speranza, ma del resto c'è sempre stata speranza, perché... se pensiamo a magari cosa pensavano, cosa potevano pensare i ben pensanti degli anni 50 di Elvis Presley. Da Elvis Presley che cosa è poi venuto fuori, magari non da lui direttamente ma dai suoi eredi storici, quindi c'è speranza. Non sono però convinto che ci sia al momento un panorama molto positivo. Qual è il capitolo o un brano che potremmo leggere al nostro pubblico per dare un saggio anche della tua penna, no? Della tua capacità di descrivere, di raccontare in maniera molto fluida la tua storia? È chiaro che il crescendo si trova soprattutto nella parte finale, ma volendo evitare la parte finale per ovvie ragioni, io quasi quasi tenderei, più che il primo, il secondo capitolo, perché è chiaro che lo stile si mantiene più o meno lo stesso un po' in tutta l'opera, però il primo capitolo è necessaria tutta la presentazione, mentre al secondo capitolo già si entra un po' più nel vivo. Non preoccupatevi, nulla che non si possa trovare facilmente, che sono già nella quarta di copertina, quindi... non stiamo anticipando niente di grave. No, non lo facciamo mai, vero? Ecco, no, assolutamente, non sia mai dire che l'assassino è il maggiordomo. Ecco, appunto. Leggerei un attimo, così, giusto per darvi un assaggio di quello che è, di come scrive Stefano. Nella grande sala riservata l'impazienza fremeva. La notizia degli eventi di New York era arrivata ormai anche a Washington DC e negli ambienti del governo e della difesa erano scattati tutti gli allarmi. Il congresso si era riunito in seduta straordinaria discutendo il da farsi, mentre il presidente si era rinchiuso nello studio ovale con metà del gabinetto e dello stato maggiore. anche al piano immediatamente inferiore, dove altri graduati avrebbero dovuto poi porre in essere le decisioni prese al vertice, il lavoro fremeva. Si era presa visione dei filmati, si erano sentite le registrazioni delle prime testimonianze, si erano raccolti i rapporti. Il concetto dei Let It Sunshine Out, che dopo gli eventi del Madison si erano rinchiusi traumatizzati in albergo, era stato trasmesso in diretta in tutta la nazione, anche in Canada e in internet. Milioni di persone avevano visto e udito la dimostrazione di quel tale Bachman, e un po' dovunque, dalla Nuova Inghilterra alla California, dalla Florida all'Alaska, arrivavano rapporti di tafferugli e di disordini. Il gruppo si era costituito senza bisogno che alcuno lo convocasse, seguendo le procedure stabilite da tempo nei casi d'emergenza. Ecco, qui c'è la drammaticità, no? Nell'organizzazione militare americana, col presidente degli Stati Uniti che per un concerto dove incominciano ad esserci delle problematiche, delle interferenze di non ben definita provenienza, fanno partire questa macchina da guerra mondiale. Ogni decisione era chiaramente demandata ai piani superiori, ma finché questi disponessero di tutte le informazioni tecniche e fossero ben informati sulle condizioni, era prima di tutto necessario che qualcuno si occupasse di fare luce nelle tenebre. Anche se, a dire il vero, le luci gettate finora erano esse stesse piuttosto tenebrose. A dispetto dell'aria condizionata in puro stile americano, nella stanza molti sudavano. Reazione del tutto naturale di fronte al continuo giungere di rapporti, conferme, smentite, ordini, controordini, del caos, insomma, che regnava sovrano. Di certo sarebbe trascorso molto tempo prima che quelle acque agitate come il mare di Bering si placassero, ma un evento inaspettato contribuì d'un tratto ad accorciare notevolmente l'attesa. Qual è questo evento inaspettato? L'evento inaspettato è l'inizio, insomma, l'arrivo dei grandi graduati che poi prenderanno il comando delle operazioni, non sempre in modo brillante, bisogna dirlo. Però qui c'è sempre, sai cosa mi è piaciuto? Perché tu anteponi sempre, allora, da una parte questi grandi eserciti, questa organizzazione, questi generali, e poi c'è lo scienziato da solo che esce fuori dal coro, ma che trova sempre la soluzione in maniera molto anche modesta, ma una soluzione o comunque una visione che aiuta poi ad andare oltre, laddove invece il percorso che questi avrebbero individuato è, li avrebbe portati, ecco, alla rovina, alla distruzione. Così come pure alla fine, insomma, c'è di nuovo un antieroe, che poi invece in realtà è l'eroe positivo, che emerge in maniera molto occasionale, anche silenziosa, ma che poi riesce a trasformare le sorti di questo racconto, di tutta questa vicenda. Vuoi che leggiamo qualcos'altro ancora? Ma più che altro vorrei far notare una cosa. Sì. Che questa, come detto, giustamente, questa è una parte drammatica, di tensione, sì, e quant'altro. Però all'interno della tensione ci sono già degli elementi che farebbero sorridere almeno il lettore più avvertito. Per esempio, il riferimento all'aria condizionata, sì, che gli americani notoriamente non tengono a livelli umani. O anche il fatto che il gruppo musicale che viene citato si chiami Let It Sunshine Out, che fa invece il verso a una celebre canzone degli anni 60 e 70 che era Let It Sunshine In. Uh-huh. E quindi, insomma, anche qui giocando, ci sono degli elementi, bravo, che possono fare un po', diciamo così, sorridere, uh-huh, anche se mascherati in questo caso. Vuoi che leggiamo qualcos'altro? Un altro... Allora, potrebbe essere senza rovinare troppo la sorpresa, sì, qualche cosa verso il capitolo 4-5, che potrebbe esserci qualcosa anche di interessante, sì. Quel, mi sa che è già un po' troppo avanti. No. Oh, non si preoccupi, non si preoccupi, non si preoccupi. Allora, anche perché è molto intuitivo, cioè tipicamente stiamo parlando di una parodia anche di molti romanzi e soprattutto film americani d'azione, e la prima reazione degli americani, almeno quelli da film davanti a una minaccia, è prendere in mano un AK-47 e cominciare a sparare a tutto quello che si muove e spesso anche a quello che non si muove. Quindi a me è piaciuto moltissimo, per esempio, la parte dove Bachmann è disperato perché non gli faranno più la serie televisiva. Allora possiamo leggere quella, che è anche molto... Scusate, devo cercarlo, perché mi sono messa i pizzini, ma se mi aiuti, che penso in... No, prima. È vero? Dovrebbe essere ancora un po' prima. Ecco qua, infatti. Esatto, inizio del capitolo settimo. Giusto? Sì. Primo canale, neve. Nuovo canale, neve. Ultimo canale, ancora neve. Possiamo dare un suggerimento? Che cos'è questa neve? È, diciamo, quando le trasmissioni vengono interrotte e quindi non si vede nulla. La musica, giusto per restare in tema con se stesso, era monotona quanto un brano dei Bee Gees. Ogni volta che cambiava canale col telecomando, il nuovo canale faceva neve. Non c'era davvero modo di trovarne uno che trasmettesse qualcosa. Non pretendeva che la televisione americana fosse così colta ed evoluta da trasmettere la vita e le opere di Franz Schubert in 712 puntate. Che sceneggiato meraviglioso, peccato che la produzione si fosse interrotta alla 16ª puntata. Ebbene, non pretendeva tanto, ma almeno un notiziario avrebbe potuto ben mandarlo in onda. E invece niente. Per quanto votato alla sopportazione, quel silenzio insistente cominciava a fargli perdere la pazienza. Infastidito, Bachmann spense il televisore con un moto di stizza, quindi gettò lontano da sé il telecomando. Mosse allora verso il computer, muovendo il mouse sul suo tappettino. Se non poteva guardare la televisione, avrebbe provato almeno con internet, sperando che qualche anima pia avesse caricato le 16 puntate di qui sopra. Mentre accedeva alla rete, un angolo della sua mente pensò che avrebbe dovuto imporre, fra le varie condizioni, di produrre anche le restanti 696 puntate dello sceneggiato su Schubert. Ecco, ci vuoi dare una piccola spiegazione? Perché mi sono trovato veramente... No, allora, la cosa divertente sta nel... fatto che poi non è tanto divertente ma un po' tragicomica, nel fatto che Schubert è vissuto 31 anni, quindi questa è la parte tragica. La parte comica è il fatto che raccontare una vita di 31 anni in 700 erotti puntate, insomma, c'è molto materiale per una nota soap opera, guarda caso anche qui americana. Quindi ovviamente quel 712 è un'esagerazione. Questo personaggio terrificante di non aver inserito questo sequel, insomma, la promessa di un sequel a uno sceneggiato che era così meraviglioso. Tra l'altro, questa naturalmente così era una provocazione, avrebbe anche potuto aggiungere, non c'è nel libro, quindi sto andando a braccio adesso, la vita e le opere seconda puntata di Bachmann, no, la stiamo di Tchaikovsky, e in effetti un seguito si potrebbe, il romanzo è completo già così com'è, però e quindi il prossimo potrebbe essere la vita e le opere di Piotr Ilyich Tchaikovsky in 1812 puntate. Bene, vi prenotiamo tutti. E naturalmente 1812 questa volta non è un numero a caso. Benissimo. Allora Stefano, io direi che se qualcuno del nostro pubblico vuole fare qualche domanda, visto che il nostro autore è qui a disposizione. Sono qui apposta. E il libro è anche presente, abbiamo qui Cristina che li distribuisce, se qualcuno ha piacere di avere una copia di può acquistarlo, o se no può prenderlo in prestito in biblioteca, abbiamo anche noi delle copie. Abbiamo preparato una piccola vetrina legandoci sempre al tema della serata con altre così saggi anche dedicati al genere in cui viene inquadrato appunto questo romanzo di Stefano Chinaglia. E niente, ti auguro di scrivere altri racconti, li ho letto molto volentieri, davvero si legge velocemente, la storia è ben congegnata e ti faccio tanti tanti auguri. rivolgendomi appunto anche a voi, se avete piacere di fare qualche domanda a Stefano. Prego. Sta scrivendo un altro libro adesso a casa, perciò. Sì, anzi, posso anche già dare una piccola anticipazione, che certamente, che certamente verso questa primavera estate un altro mio libro sarà pubblicato. Ah, benissimo. Quindi non sia mai, non si sa mai che poi torni. Quindi faremo l'appuntamento autunnale, no? Ecco, in biblioteca, benissimo. E questa volta su che? Questa volta è completamente, il tema è completamente diverso. Quindi sorpresa. Anche lo stile, cioè ovviamente la penna è sempre la mia, però l'approccio allo stile, anche questo è molto diverso. Quindi bocca cucita comunque. Va bene. Anche il titolo è. Vabbè, il titolo è scelto, il titolo è già scelto, sì? Il titolo è stato scelto da sempre, Alice. Alice. Quindi. Benissimo. Però per quello, quella, come direbbe Michael Ende, è un'altra storia che si dovrà raccontare un'altra volta. Va bene, allora adesso aspettiamo, aspettando Alice per quest'autunno, vediamo se c'è ancora qualcuno che ha qualche domanda. Se no facciamo bocca al lupo a Stefano, ai suoi studi, al suo lavoro e soprattutto alla sua attività di scrittore, perché ci fa piacere come biblioteca anche conoscere nuovi autori, autori appunto giovani che propongono con uno stile diverso, fresco e anche appunto sperimentando dei generi magari meno frequenti nella letteratura e nella narrativa del nostro territorio, perché insomma va anche detto che la nostra narrativa locale si sposta soprattutto nei romanzi di ambientazione storica oppure così indulge molto nell'ambito della memorialistica e ogni tanto magari in quella sentimentale, però difficilmente invece si sposta in un settore, in un ambito che appunto è diverso e come... anche perché siamo onesti, ambientare un romanzo come Bachmann dalle nostre parti sarebbe però io... forse sì, ma sicuramente però sarebbe stato pericoloso, perché ecco, se fatta bene sarebbe venuta bisogna bene. Bisogna vivere anche un po' però pericolosamente da giovani, perché sennò... No, ma l'ambientazione americana in questo caso era quella più ovvia. In altri casi invece no, un'ambientazione più italiana o addirittura più alpina c'è. Non è che le Alpi siano poi così pure, ecco, potrebbero veramente prestarsi a delle situazioni anche un po'... veneristiche. Prima di andare a casa faccia un giro. Facciamo un giro, ecco, così c'è un'ispirazione. Va bene, allora grazie a Stefano che è stato con noi, tanti auguri a Stefano per la sua attività, anche a Cristina che sta seguendo le orme del fratello e si è già appunto proposta in autunno, voglio ricordare che era venuta appunto a presentare il suo romanzo. E ci vedremo allora probabilmente in autunno con Alice. Sì. E grazie anche a voi, vi aspettiamo in biblioteca, questo lo sapete, insomma, il giovedì pomeriggio noi organizziamo sempre dalle 15.30 alle 16.30 un corso gratuito per come usare la piattaforma BiblioWeb, quindi scaricare sul proprio telefonino gli ebook oppure leggere i giornali in 50 più lingue, insomma. Se avete piacere, la biblioteca lo organizza ogni settimana. Benissimo, a presto, grazie, buon lavoro a voi.